il giardino del Signore. Guardate, mettetevi in viaggio verso la terra promessa del Missouri, più veloci che potete, e acquistate distese di terra. A quanto pare il giardino dell'Eden lo hanno scoperto i mormoni. Joseph Smith, fondatore della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, questa la denominazione ufficiale, sosteneva di essere in comunicazione diretta con Dio. E Dio gli rivelò dove si trovasse esattamente l'Eden, a Independence, Missouri. Era tutto ciò che i mormoni avevano bisogno di sapere. Una testimonianza letteraria sul destino dell'America centrale è quello del premio Nobel Nye Paul, di cui Adelphi pubblica La perdita dell'Eldorado, 406 pagine, 26 euro, tradotto da Loretta Colosio e Leonardo Marcello Pignataro. In questo libro si parla di Trinidad soprattutto, del quale lo scrittore ricostruisce l'inferno rappresentato dalla conquista coloniale e dalle successive prodezze degli inglesi, che proprio per lo schiavismo che alimentarono a Trinidad ebbero poi grosse difficoltà a lanciare contro la Spagna quella che oggi chiameremo una campagna sui diritti civili, appunto perché macchiata la loro immagine dallo schiavismo che coltivavano in quest'isola. Onoriamo la festività di oggi con un libro di Antonio Panaino, che è un esperto della civiltà iraniana, che si intitola I Magi e la loro stella, pubblicato da San Paolo, 232 pagine, 17 euro. Poche righe nel Vangelo hanno dato vita a una delle tradizioni di maggiore successo nella cultura cristiana, quella appunto dei re magi. E l'autore Antonio Panaino, con la sua formazione di orientalista, esamina la storia di queste figure e spiega il risvolto della loro immagine, soprattutto il significato delle allegorie legate a queste tre figure che arrivano dall'Oriente, figure dotate di una particolare qualità, perché dietro l'umile postura di supplici adoranti assumono la funzione di ambasciatori di altri mondi o addirittura di re. Sono araldi del tempo che fugge e che solo Dio governa nella sua eternità. Mimano gli apostoli e rappresentano le costellazioni. Ricevono pane di vita di fuoco, danno l'esempio e ammoniscono gli increduli. Si potrebbe dire che stiamo masticando un torrone troppo duro, anche se straordinariamente squisito e capace di soddisfare tutti i gusti. E a questo punto... Il confettino. Vi segnalo una collana di De Agostino intitolata Sulle orme di. Troviamo qua tre titoli dedicati a James Cook, a Marco Polo e ad Alessandro Magno. Ognuno di questi libri costa 9,90 euro e ognuno è ricco di illustrazioni, di rimandi storici per far capire l'ambiente nel quale operarono queste tre figure storiche e la svolta che essi rappresentarono. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, e Pietro Lacorti, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare sempre questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.